in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, eccoci per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Non abbiamo tanto tempo, cercherò proprio di darvi una carrellata dei titoli e poi soprattutto di guardare gli approfondimenti, i commenti e i supplementi culturali che oggi forse abbiamo un pochino più di tempo per leggere. Il Corriere della Sera apre con un sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli, uno dei più famosi sondaggisti italiani, che riguarda il giudizio su Renzi. Sono bocciate le misure per la crescita, ma il consenso per il Premier è salito a un livello record del 64%. I più critici, secondo questo sondaggio, sarebbero i commercianti e i titolari di partite IVA. C'è naturalmente un riferimento al workshop Ambrosetti in corso a Cernobbio, al quale, come sapete, Matteo Renzi ha deciso di non andare perché si è invece recato all'inaugurazione di una fabbrica nel Bresciano di rubinetti. E allora un po' il retroscena di Aldo Cazzullo, che cerca però anche di mettere insieme questi due avvenimenti un po' paralleli di ieri, cioè Cernobbio e la visita di Renzi alla nuova fabbrica di rubinetti. Quelli di Cernobbio non ne azzeccano una, questo è un po' insomma l'idea che ha espresso Renzi, ma che ha più volte hanno espresso anche altre persone, perché naturalmente spesso a Cernobbio vengono fatte delle analisi, vengono esposte delle teorie, poi nella pratica è tutto un po' diverso. E questo approfondimento su quello che è successo a Cernobbio lo trovate a pagina 2-3. La foto notizia, come su tutti i giornali direi, è dedicata al Festival del Cinema di Venezia. Ieri verso le 9 sono arrivati gli annunci dei premi, quindi tutti sono riusciti a inserirli con, l'avete sentito nei GR, la Coppa Volpi, che è il premio per la miglior attrice, alla nostra Alba Rohrwacher per questo film di Saverio Costanzo, Hungry Hearts. Ma veniamo subito alla prima pagina del Sole 24 Ore, che titola su quello che ha detto ieri il presidente di Confindustria Squinzi: togliamo il paese dalla spirale drammatica. Ieri Squinzi era alle rubinetterie bresciane e ha detto: con il Premier abbiamo lo stesso obiettivo, anche se le soluzioni possono essere diverse. E visto che parliamo di questo comparto così famoso, tra l'altro in quel distretto, nel distretto del Bresciano, dei rubinetti, che ha anche avuto un periodo di crisi ma che si sta riprendendo essendosi riposizionato in una nicchia di prodotti di fascia medio-alta e alta, e allora c'è un ritratto di Matteo Meneghello ai Bonomi di Gussago, e la sintesi che fa Matteo Meneghello di questo incontro con i fratelli Aldo e Carlo Bonomi delle rubinetterie bresciane è: l'Italia deve credere nei suoi imprenditori. Poi c'è sempre richiamato in prima pagina un'intervista che Beda Romano ha fatto al commissario agli affari economici, il nuovo commissario agli affari economici, Iiri Katainen, che è l'ex premier, è un ex premier finlandese molto giovane anche lui, 42 anni, e siederà nella prossima commissione Juncker, quella che sappiamo sta un po' prendendo la sua fisionomia definitiva. Poi il Parlamento europeo dovrà dare il sì, e questa intervista la trovate a pagina 7. Mentre a pagina 20 trovate la consueta lettera al risparmiatore, che esce ogni domenica, di Vittorio Carlini. Sapete, ogni domenica si concentra su un titolo quotato per analizzarne l'ultimo bilancio e cercare di spiegare quali sono i vantaggi e le prospettive di investire in questo titolo, e questa volta è un titolo delle TLC che si chiama EI Towers. La prima pagina di Repubblica invece titola su un'intervista che ha Repubblica al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che dice: l'Italia ha poco tempo. L'intervista di Federico Fubini, vi leggo giusto il passaggio che riguarda il confronto tra noi e la Spagna. Perché la Spagna cresce al 2% e noi siamo in recessione? E Visco risponde: innanzitutto ricordiamoci che la Spagna ha comunque un tasso di disoccupazione pari a quasi il doppio di quello dell'Italia. Ma un punto importante è che le stesse riforme possono avere effetti diversi se attuate in un paese in cui vi è la percezione che non saranno riviste e saranno attuate con rapidità, rispetto a un paese dove questa percezione non sia chiara e dove vi sia il timore che esse possano rimanere inattuate o addirittura essere radicalmente mutate. Se da noi ogni volta che c'è un cambiamento politico si rimettono in discussione tutte le scelte precedenti, l'effetto delle riforme diventa debole. Gli investimenti dipendono anche dallo stato di certezza o incertezza. Per questo è importante trasmettere una visione complessiva, quello che ho più volte indicato come un disegno organico. E disegno organico significa che, poiché ci sono molti interventi da fare, dobbiamo riuscire a dire con chiarezza qual è il punto d'arrivo e quali sono i tempi giusti per ciascuno dei passi necessari a raggiungerlo. Che è un po', se volete, quello che sta cercando di fare il governo Renzi con tutte le scadenze che si è dato e anche questi strumenti di trasparenza che troviamo su internet, dove in teoria dovremmo poter seguire passo dopo passo quello che viene fatto. In tema di riforme, la stampa titola su un'altra intervista che ha solo lei, ed è al ministro dell'economia Padoan, che dice riforme più potere all'Unione Europea. In questo senso vengono un po' anticipati i temi del prossimo Ecofin che si terrà a Milano, perché sapete che questo è il semestre di presidenza europea dell'Italia, e il Ecofin è quel sottoconsiglio, diciamo, a cui partecipano soltanto i ministri economici dei vari paesi. C'è un accenno a un piccolo fatto di cronaca che è successo ieri a Cernobbio, perché a Cernobbio non c'era Renzi, in compenso c'era Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle, che seguendo un malcostume molto diffuso in Italia, durante il suo intervento, che come sempre nelle tavole rotonde è a tempo, ha sforato, si è molto indispettito perché Jean-Claude Trichet, ex governatore della Banca Centrale Europea, che moderava l'intervento, gli ha detto non è stato nei tempi. E lui appunto si è molto indispettito, ma si sono indispettiti anche gli altri partecipanti, perché ripeto, soltanto in Italia sforiamo regolarmente in queste tavole rotonde. Ma comunque non è stato, al di là di questo episodio di cronaca che ho trovato così una nota di colore, l'intervento di Casaleggio è passato abbastanza inosservato. Anche qui la fotonotizia è dedicata al Festival di Venezia, mentre il Messaggero ha un'altra intervista ancora. Oggi è un po' il giorno delle interviste esclusive, questa in questo caso è al nostro ministro della Difesa Roberta Pinotti, che dice sulla questione degli immigrati intervenga la NATO. Sapete che in Galles si è appena concluso il vertice della NATO, un vertice anche importante, dove la NATO ha un po' ripreso coscienza di se stessa, se vogliamo. Sono stati addirittura annunciate la costruzione di 5 nuove basi NATO, dell'Alleanza Atlantica, che comprende 28 paesi, tra cui naturalmente non c'è la Russia. Probabilmente è stata appunto la crisi Russia-Ucraina a ricompattare l'alleanza, ma anche la crisi, il terrorismo, la recrudescenza del terrorismo in Iraq, il prendere forza dell'ISIS. Però Pinotti dice anche la questione degli immigrati forse è una cosa di cui potrebbe occuparsi la NATO. C'è la fotonotizia dedicata invece a Napoli, alla vicenda di Napoli, al giovane ucciso 2 giorni fa, il giovane di 16 anni ucciso da un carabiniere che ne aveva appena 22. E poi c'è un approfondimento su una questione che ieri era in primissimo piano, oggi è già un po' sottotono, che è quella dello sciopero annunciato delle forze dell'ordine, della trattativa in corso per evitare il blocco degli stipendi. E allora, appunto, servizi alle pagine 2 e 3, agenti, piano per gli stipendi, sblocco degli scatti dal 2015. Il governo pensa a scongelare gli assegni funzionali dopo 4 anni. L'Avvenire ha un'apertura ancora diversa, si focalizza sul lavoro, sui tavoli di crisi. Sapete, ne abbiamo parlato 2 settimane fa durante la rassegna stampa. Si riaprono adesso al ritorno un po' dalle vacanze tutti questi tavoli di crisi al Ministero del Lavoro. Ci sono in gioco, ricorda Avvenire, altri 150.000 posti di lavoro. E a proposito però di risorse, perché per esempio se ci vorranno ammortizzatori sociali, un maggior ricorso agli ammortizzatori sociali, ci vorranno più risorse, c'è un accenno di Avvenire a quello che ha detto ieri Renzi, che c'è ancora grasso che cola nel pubblico, ora i tagli. Naturalmente la spending review del commissario Cottarelli è pronta adesso, come se è stato detto più volte anche dallo stesso commissario Cottarelli. Lui ha indicato tutti quelli che considera sprechi o cifre tagliabili, poi dove tagliare, come tagliare, quando tagliare sono scelte che spettano alla politica. Il titolo di Libero, come salvarsi se sbagli col fisco, quindi ancora un titolo diverso. Questa è proprio una vera e propria inchiesta, visto che sappiamo ci aspettano purtroppo nuove tasse con la fine dell'estate, con l'autunno. A settembre, spiega Libero, sono imprevisti 300 pagamenti. Tra tutti, naturalmente private, imprese, ecco la guida per evitare super sanzioni se non si riesce a stare dietro a tutto, ed è un servizio di Sandro Iacometti. Il giornale invece ha ancora un'apertura diversa, un documento esclusivo depositato il 22 maggio al Senato americano, che indicherebbe le mosse che Obama, l'amministrazione Obama, vorrebbe prendere contro Putin. Allora il titolo molto forte: così Obama vuole spingerci alla guerra con Putin. Il piano depositato il 22 maggio prevedeva già il conflitto ucraino e le reazioni della NATO. Poi un accenno a quello che è successo in Iraq, perché i jihadisti avrebbero preso 100 bambini in ostaggio. Il manifesto invece titola sulla vicenda di Napoli, la foto è quella delle manifestazioni che ci sono state ieri a Napoli, la solitudine di Traiano, che è il quartiere dove è avvenuta questa sparatoria con l'uccisione del ragazzo di 17 anni che era su uno scooter insieme a altri due ragazzi non si sono fermati all'ALT e hanno spiegato che spesso questo succede in quel quartiere perché nessuno ha l'assicurazione o il bollo e quindi non vogliono fermarsi a dare spiegazioni. Il titolo del Fatto Quotidiano: Renzi va alla guerra contro la sinistra ai salotti buoni. Marco Travaglio si esibisce oggi, ieri si era esibito in tutti gli annunci fatti da Renzi, oggi invece in tutti i titoli dedicati ai giornali da Renzi. Se qualcuno vuole divertirsi, inizia in prima pagina questo articolo e continua le pagine 4 e 5. Naturalmente la tesi di Marco Travaglio è che i grandi giornali hanno fin troppo sostenuto Renzi. Concludiamo prima della pausa per il traffico con la Gazzetta dello Sport, con questo scontro che viene definito scontro Italia-Juve. Perché la Juve, siccome Chiellini è stato, la Juve ci ripensa, Chiellini a Torino, Conti beffato, Riali lo punge, questo scontro sulla convocazione di Giorgio Chiellini in nazionale. Poi c'è un'intervista a Buffon che dice Antonio è l'ideale per noi, Antonio Conte, che risposta con l'Olanda dopo la smerla mondiale. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto le prime pagine dei giornali e dalle pagine interne vi segnalo un bellissimo commovente ricordo a pagina 11 del Corriere della vittima dell'alluvione in Puglia. È un ragazzo di appena 24 anni, Antonio Facenna, faceva l'agricoltore e ce lo racconta Carlo Vulpio, che è l'inviato del Corriere in Puglia insieme a Lucia Casamassima. Ve ne leggo una parte. Studente Antonio Facenna, dopo le superiori, aveva deciso di dedicarsi all'allevamento e all'arte della lavorazione del caciocavallo podolico, una prelibatezza da buon gustai, perché si ricava dal latte della vacca podolica, una razza proveniente dalla regione ucraina della Podolia. Antonio, per questa sua passione, per la determinazione di continuare a tener viva la tradizione di famiglia fino ai suoi bisnonni, si è anche meritato un documentario del Carpino Folk Festival, una manifestazione legata a uno dei più grandi autori di musica popolare, Matteo Salvatore, per il quale Italo Calvino disse: «Le parole di Matteo Salvatore noi le dobbiamo ancora inventare». Antonio non componeva musica né scriveva canzoni, ma la sua era lo stesso poesia. A rivederlo in quel documentario, la gente si commuove per la leggerezza e la convinzione con cui parla di latte, pascoli, formaggi, mucche e lavoro, non come condanna, ma come strada per realizzare se stessi ed essere in qualche modo anche felici. E probabilmente è morto, perché è stato trovato pochi metri dalla sua auto, proprio perché per l'alluvione voleva andare a controllare come stavano i suoi animali e come era messa la sua masseria. E se n'è andato ad appena 24 anni, una bellissima storia, veramente trovo commovente. Veniamo alle pagine interne del Sole 24 Ore, c'è un lungo approfondimento nella copertina di Imprese e Territori, che quindi è la pagina 17, sulla vicenda delle acciaierie di Piombino, perché l'azienda indiana Jindal, che si è detta più volte interessata, adesso starebbe appunto stringendo, potrebbe quindi esserci presto una soluzione. Dalla pagina interna della Repubblica, questa bella storia sulla calligrafia che sopravviveva in Vaticano, era però molto cara e quindi veniva usata per alcuni documenti ufficiali del Vaticano, però ora per una questione di costi, di spending review, calligrafi, incisori e restauratori, la scura del Vaticano sui maestri d'arte, con un commento di Stefano Bartezzaghi, il grande enigmista, che dispiacere questa lenta morte della scrittura manuale. Sulla Stampa vi segnalo un'intervista al ministro Alfano: Napoli è una trincea, basta vedere lo Stato come un nemico. Un approfondimento su Ebola, perché in Sierra Leone finisce la quarantena, è stata indetta una quarantena per 4 giorni, tutte le persone sono state invitate a rimanere a casa. E poi un'ultima segnalazione dalle pagine interne, dall'Avvenire, su una vicenda che sicuramente meriterebbe molto più attenzione, che è quella degli appartamenti dell'Aquila, che stanno, sapete, in molti casi crollando, quelli post ricostruzione. Ma veniamo ai supplementi culturali, perché abbiamo purtroppo poco tempo. Iniziamo naturalmente dalla Domenica del Sole 24 Ore. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi dedicato al silenzio. Credo che se tutti facessimo un po' di silenzio, forse potremmo capire. Ci siamo rituffati nelle città, dopo le vacanze, abbiamo ritrovato il fracasso costante delle strade, la chiacchiera frenetica che crepita nei cellulari e si effonde sulle relazioni tra persone. C'è chi, per non perdere l'abitudine, ha passato anche le ferie in luoghi balneari o turistici dove il rumore e il vociare non hanno mai tregua, come nel resto dell'anno. E invece, quanto sarebbe necessaria la pratica del silenzio, come suggerisce Fellini in questa battuta del suo film La voce della luna. A dirle Benigni, che ode appunto le segrete parole dei pozzi, dei cimiteri, del cielo notturno. Per una vera conversazione ci devono essere sempre spazi di silenzio, di ascolto, aloni di luce dove le parole si incidono con maggior forza, come accade agli spazi bianchi che la poesia lascia in ogni sua riga. Senza il silenzio la parola diventa vaniloquio, senza la parola il silenzio diventa mutismo, diceva Cioran. E il memorandum del nostro direttore, del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, dedicato a una signora che lui ha incontrato a Ferrara, e che si chiama Lorenza Cappanera, che ha deciso di reinventarsi, era una archivista della prefettura e ora invece vende prodotti dalle colline delle Marche, la sua città natale è Ancona, e ha raccontato naturalmente le difficoltà del mettersi in proprio, e ancora una volta Roberto Napoletano, prendendo spunto da episodi di vita reale, ci spiega come l'emergenza innanzitutto sia sempre in qualche modo riconducibile al lavoro e poi a questa farraginosità di regole che rischia veramente di bloccare gli entusiasmi delle persone, dei giovani, ma anche delle persone mature. Un interessantissimo approfondimento a pagina 31 sui farmaci, economia e sanità, di Lucio Luzzato, che parte dal caso del Sofosbuvir, che è un farmaco, l'unico farmaco con cui si può curare efficacemente l'epatite C, costa $1,000 a pasticca negli Stati Uniti, 11 in Egitto. Il Senato americano è insorto. Il senso di questa analisi è che il prezzo di un prodotto farmaceutico non può essere arbitrario o giustificato solo da una logica di profitto, come avviene per qualunque altro oggetto, perché spesso di mezzo c'è la vita umana. E naturalmente il discorso può essere allargato alla sanità, anche ai servizi, non soltanto ai farmaci, che appunto e a tutti quelli che erogano questi servizi nel privato. Cioè, può essere la sanità una cosa in cui si include anche il profitto? Non so, è una grande domanda a cui naturalmente bisognerà rispondere quando si dovrà riformare i sistemi sanitari nei paesi occidentali dove la popolazione invecchia molto velocemente. Supplemento del domenicale dedicato al Festival della Filosofia di Modena Carpi Sassuolo, ricorderete anche la settimana scorsa la lettera inventata di Giacomo Leopardi, messa insieme da Antonia Paolini, ce n'è una seconda parte oggi. Per me la gloria è affar serio. La lettura del Corriere della Sera, la copertina è di Gilbert and George, i due commediografi, ma insomma artisti eclettici inglesi. Ma vi segnalo un bellissimo articolo di Roberto Ferrucci dedicato a Marco Van Basten, amico fragile. Dopo, sapete, la grande carriera anche al Milan come calciatore, poi è stato allenatore, ora però ha lasciato anche il mestiere di allenatore perché è colpito, ci spiega Roberto Ferrucci, da una forma di depressione. Quindi la storia di questo grande campione, appunto campione e uomo tutto sommato fragile. Un bellissimo reportage di Vincenzo Trione sulla mostra che dal 27 settembre la Royal Academy di Londra dedica a Anselm Kiefer, uno dei più grandi artisti tedeschi viventi. Sulla invece la Domenica Cult, cioè il supplemento della Repubblica, la copertina è un articolo di Jamaica Kincaid, la scrittrice americana, che torna sulla questione Ferguson, tra l'altro dove ricorderete era stato ucciso quel ragazzo, un episodio in qualche modo che ricorda quello che è successo a Napoli. C'è un ragazzo nero che per il New York Times ha fatto il grande errore di definire non proprio uno stinco di santo, un po' come alcuni hanno sottolineato il fatto che il ragazzo ucciso a Napoli fosse appunto a bordo di uno scooter senza casco con due persone, lo scooter non era assicurato, insomma non proprio un perfettino, e però ucciso con una reazione spropositata di un rappresentante delle forze dell'ordine. E allora, siccome a Ferguson in Missouri la questione è diventata molto pericolosa e quasi sfuggita di mano alle autorità, Jamaica Kincaid ci racconta in esclusiva per Repubblica il suo lungo viaggio attraverso il razzismo. Ma vi segnalo, l'ultima cosa che riesco a segnalarvi è la rubrica di Walter City dedicata alla poesia come ogni domenica. Oggi la scelta di Walter City cade su Odin, che sapete è il poeta in Italia forse, ma in tanti paesi è diventato famoso per quel funeral blues che veniva recitato in Quattro matrimoni e un funerale, quella bellissima poesia in cui chi perde un amore, un grande amore, alla fine si chiede come possa tutto continuare, come possa la vita continuare, perché per lui si è fermata. Ma naturalmente l'analisi riguarda tutta l'opera di Oden da parte di Walter City. In realtà ho ancora tempo anche per Alias del manifesto, che invece ha una copertina dedicata a Nietzsche, perché è appena uscito un nuovo libro di Maurizio Ferrari, Spettri di Nietzsche, questo autore che insomma non finisce di ispirare critiche, di ispirare, ma anche grandi artisti, perché Ferrari ci racconta, per esempio, che persino Jim Morrison, il cantante dei Doors, era un grande fan di Friedrich Nietzsche. E infine Macro, il supplemento del Messaggero, questa bellissima notizia: nel Bosco dei Libri del Futuro sono stati piantati a Oslo 1000 alberi che nel 2114 diventeranno carta per 100 volumi, creati uno ogni anno da altrettanti autori. I manoscritti saranno conservati al sicuro dal Future Library Trust. Era veramente l'ultima segnalazione che riesco a farvi, ma vi dico davvero, oggi giornali ricchissimi di commenti sull'attualità e soprattutto di approfondimenti culturali. Grazie a Peter Bescapè in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.